Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Allora, come largamente preannunciato anche nei giorni scorsi, anche noi oggi ci occupiamo, lo dobbiamo fare in maniera inevitabile, del BTP Day. Allora, ricordiamo un po' la cronistoria di questo appuntamento. In un certo senso tutto ha avuto inizio il 4 novembre scorso con l'appello di un signore cinquantenne toscano, lo abbiamo ricordato tantissime volte, responsabile di una società di leasing, il signor Giuliano Melani, un nome ormai noto a chi segue l'informazione economica e non solo, che ha comprato un'intera pagina del Corriere, si dice alla modica cifra di circa 20.000 euro, per diffondere un annuncio. Il signor Melani sosteneva, in parole povere, ogni anno lo Stato deve rinnovare BTP e altri titoli di Stato per circa 270-280 miliardi, il che fa 4.500 euro per ogni cranio, per ogni cittadino. Se ciascuno di noi, diceva lui, sottoscrivesse titoli per 4.500 euro, cominceremo a ricomprarci il debito e potremmo contribuire ad allentare la tensione finanziaria che rischia di portarci all'insolvenza. Questo era il suo messaggio. Un messaggio, un appello, una provocazione, comunque la si voglia intendere, quella paginata del Corriere ha aperto un dibattito molto serio tra economisti e commentatori del nostro paese, che si sono divisi in maniera anche molto radicale, molto forte, sull'opportunità o meno di consigliare e incentivare i risparmiatori grandi, ma soprattutto i piccoli cittadini, all'acquisto del nostro debito. Non sono passati molti giorni da quel 4 novembre e i rendimenti dei nostri BTP hanno cominciato letteralmente a prendere il volo, hanno scavalcato la soglia del 7% con il differenziale di rendimento fra i nostri titoli e quelli tedeschi che ha superato largamente i 500 punti base, si è portato al record massimo degli ultimi tempi, se non ricordo, a 570 punti. Il titolo biennale quota stamattina anche oltre l'8%. E poi è successo tutto quello che è successo anche sotto l'aspetto politico. Abbiamo avuto un cambio di governo, ma cos'è successo di nuovo? Che l'appello di Melani è stato in qualche maniera istituzionalizzato, perché è stato raccolto dall'Associazione delle Banche Italiane, che ha organizzato il BTP Day, la giornata odierna appunto, che vede coinvolte oltre alle banche anche tutte le organizzazioni di intermediari, operatori finanziari e Borsa Italiana. Oggi l'operazione è sul mercato secondario, i BTP si possono comprare appunto sul mercato secondario, il 12 dicembre si bissa in occasione di un'asta di botte, in quella giornata si incentiverà un acquisto collettivo di titoli da parte dei risparmiatori appunto, che potranno sottoscrivere i titoli di Stato direttamente in asta. Oggi le banche, per attirare i risparmiatori verso questa operazione, rinunciano alle commissioni di intermediazione. Allora, siccome a Salva Danaio noi ci occupiamo sempre di temi di risparmio delle famiglie, per nostra consuetudine abbiamo ritenuto naturale organizzare la trasmissione su questo tema, non senza una punta di scetticismo e criticità, poi ve ne spiegheremo le ragioni, però siccome molte famiglie oggi hanno deciso di aderire a questa operazione, quantomeno cercheremo di spiegarne i termini in maniera molto didattica, e così come non mancheremo di ricordare anche le testimonianze di quegli ascoltatori arrivati direttamente qui a Salva Danaio, che ci raccontavano come le stesse banche qualche settimana fa si rifiutavano di vendere titoli di Stato italiani senza spiegare bene le ragioni di questo rifiuto, spingendo, come sta capitando per la verità da anni, per la sottoscrizione invece di obbligazioni bancarie. Chiaramente le banche fanno fatica a fare raccolti in questo periodo e quindi spingono per prodotti di casa propria. Ma come funziona questo BTP Day? Cosa ne pensano i nostri ospiti di questa mattina? Ne abbiamo tanti, ce la sentiamo davvero di consigliarlo in maniera così serena? Non possiamo consigliare niente, noi ovviamente solo cercare di capire vantaggi e svantaggi di una operazione di questo tipo, di una scelta di questo tipo per i risparmiatori che oggi vorranno farla. Saluto e ringrazio per essermi qui vicino oggi, per avermi raggiunto qui a Salva Danaio, un collega che io amo molto, ve glielo dico così spudoratamente, Ugo Bertone, giornalista economico, già direttore di Finanze e Mercati, Borse e Finanza, già collega del Sole 24 Ore negli anni passati quando io non ero ancora qua, oggi una delle firme più autorevoli del sito web First Online .info. Ugo, buongiorno. Ho detto tutto, buongiorno. Ma so che fai tantissime altre cose. E allora oggi mi aiuterà un po'. a capire bene i termini di questa operazione, pregi e virtù, ma anche difetti, se ce ne sono. Poi Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Poletto, buongiorno, è già collegato buongiorno con noi, buongiorno, benvenuto. Saluto e ringrazio anche per essere con noi, per come dire, la rappresentanza del mondo bancario. Federico Cornelli, direttore operativo di Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, quindi abbiamo chiamato anche la banca che opera direttamente sul territorio molto più di tutte le altre. Forse, dottor Cornelli, buongiorno e benvenuto. Buona giornata a tutti. E poi ci collegheremo con Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex, fra qualche minuto nella seconda parte di Salvadanaio. Allora, se volete, come sempre, avete l'opportunità di interagire con noi chiamandoci in diretta all'800240024, scrivendoci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima del BTP Day andiamo alla Borsa Day. Borsa che oggi, speriamo che non cambino le cose nel pomeriggio, ci fa veramente tirare un sospiro di sollievo, perché vedo tutti i listini decisamente brillanti, più 3,55% a Parigi, più 3% a Francoforte. Londra rimane sempre un pochino indietro, un po' sempre schizzinosa rispetto alle altre piazze finanziarie, più 2 Milano, più 3,21%. Buon andamento oggi, netto riscatto sul dollaro anche dell'euro a 1,33,73. Lo spread fra BTP e Bund, differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani decennali e i cugini tedeschi, stamattina ripartito sui 550 punti base, ridisceso sui 470, 475, 4,80, sta gravitando intorno a questa soglia, anche se il rendimento del BTP rimane sopra il 7%. Oggi c'è stata anche un'asta di BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro, dall'asta è scaturito un rendimento molto alto, anche in questo caso del 7,30%. Anche se le domande appunto da parte degli investitori sono state a quanto pare piuttosto buone. E, insomma, questa è la situazione di oggi, in una giornata in cui si aspettano delle novità anche su questo presunto possibile, qua si parla tanto, accordo fra la Francia e la Germania per favorire rapidi cambiamenti dei trattati europei che possano portare anche alla riforma, se si vuole, della Banca Centrale Europea, chiamata non più a controllare solo l'inflazione, ma se si vuole anche a sostenere le economia. Insomma, c'è tanto dibattito politico in questo momento effervescente, ci si aspettano delle chiarite, delle prese di posizione meno rigide come al solito della Germania. Forse oggi il mercato guarda con maggior favore ad una prospettiva di questo tipo, anche se negli ultimi minuti si è parlata anche della possibilità di questo prestito del Fondo Monetario Internazionale nei confronti dell'Italia, una notizia che è stata pubblicata ieri dalla stampa. Il Fondo Monetario da Washington ha smentito che sarebbe pronto a staccare questo assegno per l'Italia fino a 600 miliardi di euro, ma forse anche questo sembra aver fatto bene al mercato. Insomma, Ugo Bertone, in quale situazione ci troviamo oggi? Insomma, come ti sei presentato a Salvadanaio questa mattina? Con quale sensazione anche rispetto a questa grande operazione di sollecitazione al risparmio e all'investimento? Perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Quella di oggi non è la colletta alimentare di sabato scorso, è un'operazione ben diversa che va maneggiata con cura. Hai detto tutto in poche parole, la sollecitazione al risparmio è qualche cosa che normalmente viene codificata e gestita attraverso delle regole molto precise, ed è molto importante per me evitare che il clamore mediatico porti ad investimenti, a comportamenti che siano soltanto emotivi. L'emotività, lo sappiamo benissimo, nel risparmio e nella gestione dei soldi è molto molto importante, e tendenzialmente è più facile provare paura piuttosto che provare euforia. Ma la paura, i nostri nonni nelle trincee della prima guerra mondiale, o bisnonni addirittura, lo sapevano benissimo, confina anche con dei momenti, con degli slanci di euforia che andrebbero tenuti sotto controllo. Io ho un po' la sensazione che questo richiamo al BTP Day abbia un effetto mediatico interessante, è un'operazione di marketing molto interessante per il sistema bancario, da un certo punto di vista confina con i grandi saldi di Natale. Noi sappiamo che bene o male molte banche sono gonfie di BTP che non sanno come collocare, e tutto sommato riescono in questo modo a fare un'operazione promozionale. Aggiungiamo che sperano pure di attrarre nuovi clienti, i quali nuovi clienti oggi non pagheranno commissioni alla banca per l'operazione, però magari apriranno un dossier titoli e questo gli costerà un 35 euro circa, mi sembra di capire, a livello annuo. Quindi è un'operazione che può essere interessante, che è a rischio, perché non dimentichiamolo che se i mercati offrono l'8% per un BTP biennale e non sono Babbo Natale, prezzano un rischio abbastanza elevato. Visto che viviamo nell'assoluta incertezza, un certo giorno esce fuori che il Fondo Monetario potrebbe imprestarci i quattrini al 5%, in tal caso chi oggi compra dei BTP all'8 fa un guadagno nettissimo, e la mattina dopo questa cosa viene smentita. Non sappiamo cosa può succedere domani mattina. Prima di consigliare a chi ha un orizzonte di tempo lungo e cerca tranquillità un investimento come questo, io ci penserei su due volte. Quindi va bene l'aspetto emotivo, vogliamo fare un contributo allo Stato, vogliamo fare un contributo in un certo senso a noi stessi, però l'appello del 4 novembre, che era il giorno di Vittorio Veneto, forse è un po' eccessivo, è un po' fuori luogo. Allora, tra l'altro saluto Patrick, un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, mica siamo scemi, botte comprateveli voi, mi meraviglio che Radio 24 si presti a queste iniziative. Patrick, non ci prestiamo a un bel niente, mi presto, così come hanno fatto i colleghi, come ha fatto anche Oscar Giannino questa mattina a spiegare i termini della situazione e lasciar trapelare evidentemente quello che pensiamo. Detto questo, se un investimento si fa nella totale consapevolezza, tutti hanno diritto di fare quello che vogliono. L'importante è che magari allo sportello bancario questa mattina ci sia anche un consulente che ti spieghi bene quello che stai facendo e che se ci vai con un bel mucchietto di quattrini magari ti dica stai attento, non mettere tutto qua in questo momento. Come sempre, ricordati la regola aurea dell'investimento, che è quella della totale massima diversificazione, non mettere tutte le uova in un paniere, per cui se vuoi aiutare il tuo paese in questo momento, bene, è chiaro che il nostro individuale piccolo contributo non so quanto potrà portare, sicuramente se lo spread stamattina si è allentato non è perché c'è stata una massiccia adesione delle famiglie italiane a sottoscrivere BTP quest'oggi. Prima di sentire, non riesco a farlo adesso, Pietro Poletto e Federico Cornelli, vorrei sentire però subito Roberto da Parma, perché stamattina ha voluto aderire all'operazione, ha trovato però la sorpresa in banca. Roberto, rapidissimo, buongiorno, grazie. Deborah, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io volevo solo segnalare una cosa. Io i giorni scorsi ho avuto notizia del BTP Day con commissioni azzerate per quel che riguarda la negoziazione. Perciò, per uno che come me acquista e rivende anche in giornata, io avevo capito che le commissioni fossero azzerate per vendita e acquisto. Stamattina ho acquistato titoli, quando ho venduto mi sono lo stesso trovato una commissione. Roberto, aveva fatto caso se la sua banca aveva aderito o formalmente, ufficialmente? E ha chiesto spiegazioni, che cosa le hanno detto? Che è esclusivamente per la vendita, esclusivamente per l'acquisto. Ciò invece per me, il termine negoziazione indica il fatto che se io ho una negoziazione, certo. Io chiedevo se le altre banche si comportano in questo, ma posso dire anche la banca di riferimento? Perché no? Tanto se l'ha fatto non è un segreto. Benissimo, grazie Roberto, la ringrazio. Poi allora andremo, siccome io ho anche sotto gli occhi in questo momento le domande e le risposte che l'Associazione Bancaria Italiana ha divulgato per chiarire tutti i termini di questa operazione, adesso cerco proprio la voce, costi da sostenere, poi magari anche i rappresentanti delle banche di Borsa Italiana che sono qui questa mattina ci facciamo dare delle citazioni su questo. Allora, a parte tutti gli scettici relativamente a questa operazione, a parte tutti coloro che invece ci credono fermamente, questa mattina daranno questo segnale sottoscrivendo titoli di Stato sul mercato secondario, c'è anche un terzo gruppo di persone che ci sta scrivendo e che ancora che crede, che ha paura che il nostro paese possa avere una brutta fine da qui ai prossimi mesi. E allora Licia da Trento ci scrive: credo che noi piccoli risparmiatori non sappiamo bene a cosa andiamo incontro in caso di default investendo ora in BTP. Le sarei grata se durante la trasmissione potesse chiarire l'argomento. Ci vorrebbero 18 trasmissioni per delineare uno scenario di questo tipo che noi non vogliamo neanche prendere in considerazione. Io magari, Ugo, aiutami tu. Quello che vorrei dire è che non è un uno scenario che si verifica dall'oggi al domani. La Grecia, che è in crisi nera da tempo, non è uscita dall'euro, non sono ancora ritornati alla dracma, non succederà, probabilmente, lo speriamo, ristrutturerà il proprio debito, se ne faranno carico le banche europee, però la Grecia, che ha truccato i conti, che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità a lungo, è ancora lì e ancora ce la stiamo tenendo. Quindi se una situazione di difficoltà enorme si verificasse per l'Italia, prima che salti il paese, voglio dire, penso che quantomeno qualche anno dovrebbe passare e forse il BTP sarà l'ultimo dei problemi nostri. Ugo, che Bertone. Sia l'ultimo dei problemi lo penso anch'io. Io credo che, come ha detto Sarkozy, l'Italia in un certo senso è il cuore dell'Europa, cioè è un paese troppo grande per essere salvato, ma anche troppo grande per fallire, nel senso che se falliamo noi, allora temo che fallisca buona parte del pianeta. Per questo ci sarà uno sforzo molto diverso e credo che queste settimane siano cruciali, in un certo senso l'intervento congiunto franco-tedesco insieme all'Italia dimostra che comunque si è messo in movimento. Aggiungo soltanto una cosa, c'è una cosa che fa veramente imbestialire il direttore generale del Tesoro sul debito pubblico, la signora Cannata, ed è il paragone Italia-Grecia. Perché dice che tutto sommato c'è stata una forzatura mediatica molto forte, perché paragonare un paese come la Grecia, con tutto il rispetto, che è il 2,5% del PIL, non ha valore industriale particolare, è un'economia molto modesta, con l'Italia che, come stiamo vedendo in questi giorni, bene o male muove interessi e forze molto potenti, è davvero una forzatura. Sono casi completamente diversi. Non andremo mai a fare la fine della Grecia, nel bene come nel male. Forse se la Grecia fosse stata pilotata a tornare indietro verso la dracma con abbondanti capitali starebbe meglio e recupererebbe. Per l'Italia questo non è neanche immaginabile. Devono sopportarci, noi dobbiamo sopportare gli altri, meglio se ci sopportiamo bene. Ritorniamo al BTP Day, che è quello che più interessa i nostri ascoltatori oggi, e cerchiamo di chiarire un po' allora a quali commissioni oggi rinuncia la banca per poter permettere ai propri clienti di investire sul titolo di Stato italiano. Federico Cornelli, mi faccio aiutare da lei per capire intanto che cosa ha fatto ovviamente la banca che lei oggi rappresenta, e chiarire un po' anche i termini di questa questione nel dettaglio, perché non è che oggi andando in banca si può fare quello che si vuole gratuitamente e non è la giornata dello shopping sul titolo di Stato, è qualcosa di più strutturato e al quale bisogna fare attenzione. Allora, dottor Cornelli, quali sono le commissioni, perché ce ne sono diverse per fare un'operazione di investimento, alla quale appunto oggi la banca rinuncia? Ce lo può spiegare in termini semplici? Buona giornata a tutti. A tutti i teleradioascoltatori, premesso ovviamente ciò che ogni risparmiatore deve fare rispetto al profilo di adeguatezza del proprio profilo di rischio, che è previsto ormai nelle norme della MiFID da tanto tempo, e quindi valutare con serenità se l'investimento è consono al proprio idea di rischio e al proprio orizzonte temporale. L'ABI ha inteso venire incontro a questo momento particolare a sostegno del Paese con questo BTP Day. La commissione di negoziazione, che oggi viene sostanzialmente cancellata, è a favore ovviamente di cosa? Di un acquisto di nuovi titoli di Stato. La ratio è quella di sostenere ovviamente il debito pubblico, per cui per esempio un risparmiatore che vende un bot per comprare il CCT ha un impatto nullo sul debito pubblico. Quindi questo è probabilmente, mi scusi se la interrompo, ciò che è accaduto, l'ascoltatore che ci ha chiamato avrà fatto due o tre operazioni contestuali, quindi non si sarà accorto che sull'acquisto non ha pagato, ma ha evidentemente pagato invece la commissione sulla vendita, ecco. Per cui la commissione di negoziazione è cancellata per oggi, e poi vedremo quelle per il 12 dicembre, e quello sullo acquisto di titoli di Stato italiano. Sono commissioni sul mercato secondario, variano da banca a banca, in genere sul titolo di Stato italiano è una commissione comunque che si situa nell'intorno del 0,20-0,30% del valore, quindi non siamo su, per esempio, commissioni magari diverse prese per l'azionario. Comunque il titolo di Stato è, almeno fino a poco chissà tempo fa un titolo free risk che così era inteso e quindi... Esatto, ha detto bene fino a qualche tempo fa. Adesso il free risk è un concetto che è stato completamente cancellato da questa crisi e non esiste più uno strumento di investimento che è totalmente privo di rischio. Cornelli, che ne pensa? Ma direi che il rischio c'è sempre stato, poi nei libri di economia si doveva dire che il titolo di Stato era free risk perché era quello con il più basso rischio. Direi che oggi forse mediaticamente, come prima ricordava il nostro collega, c'è stata una forzatura. Faccio un esempio: si guarda sempre allo spread BTP Bund, ma nessuno nei media, per esempio, ha dato un'occhiata allo spread BTP BEI o BTP, Fondo Europeo di Finanza, questo nuovo fondo che è stato lanciato, cioè al vero ultimo benchmark, per esempio la BEI, che spiego per gli ascoltatori, è la Banca Europea degli Investimenti. E quindi sono obbligazioni di enti sovranazionali che hanno generalmente una tripla A, quindi ritenuti molto affidabili. Esatto, tripla A, molto affidabili, e raccolgono fondi per fare investimenti in Europa e sono un vero benchmark per l'Europa. Oggi loro, per esempio, lavorano con dei rendimenti diversi dal Bund. Perché? Perché in questa irrazionalità, credo, del momento, si sono tutti dimenticati di vedere come l'Europa nel suo complesso, per esempio attraverso questa BEI, può fare fondi. Il Bund, infatti, lavora, cioè paga dei rendimenti addirittura inferiori a quelli dell'intera Europa, per cui ritorniamo alla domanda: è il titolo di Stato un investimento privo di rischio? Direi che senz'altro oggi lo prezza a rischio, ma ricordiamoci che anche il titolo di Stato tedesco è un titolo di Stato pieno di rischio, anche il titolo di Stato francese, perché se qualcosa dovesse andare male all'Italia, non pensino gli investitori che le stesse ripercussioni non ci sarebbero sul Bund, sull'OAT francese. No, io lancio sempre questa immagine, insomma, avete presente quei servizi delle televisioni in cui ci mostrano come funzionano le gare di domino, no? Sai, tutti quei talloncini che praticamente cadono uno dietro l'altro, sono un po' meno, non sono tutte quelle gradinate di mattoncini, ecco, che vediamo nella televisione. Però insomma io so che per esempio la Francia ha in portafoglio centinaia di miliardi di titoli di Stato italiani, per cui ovviamente non ha nessun tipo di interesse affinché il nostro paese avanzi nel grado di difficoltà che vive in questo momento. Ritornerei però al BTP Day, ancora per fare un po' di ABC su questa operazione, più che di parlare appunto di scenari macroeconomici mondiali, di cui si occupano invece altre trasmissioni a Radio 24. Abbiamo spiegato bene qual è il tipo di commissione alla quale oggi la banca rinuncia per effettuare un investimento in titolo di Stato italiani, è quella d'acquisto. Quindi se andate in banca perché oggi avete deciso che il BTP lo volete vendere, l'operazione è diversa. Su quell'operazione la commissione la pagate. Così come se non avete mai toccato un titolo di Stato in tutta la vostra vita o nessun altro prodotto di investimento, in banca avete solo il conto corrente, oggi vi siete alzati e volete fare l'investimento nel titolo di Stato, sappiate che in banca l'acquisto ve lo fa fare gratuitamente, vi fa aprire il conto titoli, è un'operazione costosa, naturalmente poi questo conto titoli va mantenuto secondo tutta la durata dell'investimento, ha un costo di manutenzione, ha l'imposta di bollo da pagarci, per cui ricordatevi anche tutte queste cose. Che sudata. Allora, Pietro Poletto, Borsa Italiana, ancora buongiorno. Buongiorno. Ci saranno due iniziative, quella di oggi e quella del 12. Oggi il titolo di Stato si può sottoscrivere sul mercato secondario, il 12 dicembre il titolo di Stato si potrà comprare in asta. Ci spiega, per spiegarlo a tutti gli ascoltatori, la differenza di fondo delle due operazioni? Beh, intanto diciamo che nella giornata di odierna Borsa Italiana aderisce a questo tipo di iniziativa per quanto riguarda il mercato secondario, tutti i titoli di Stato negoziati sul mercato MOT, il mercato obbligazionario dei titoli di Stato. E l'adesione di Borsa Italiana si concretizza nel annullare tutte le commissioni di negoziazione in acquisto in conto terzi su questi titoli per gli intermediari aderenti, per cui non ha la rilevanza diretta per l'investitore finale, ha rilevanza diretta per le banche che aderiscono direttamente al mercato e gli intermediari che sono aderenti al mercato. Quello che succederà nella seconda edizione è, se non ci vede coinvolti come Borsa Italiana, in quanto noi gestiamo il mercato secondario, ma è relativamente all'asta di mercato primario dei BOT, per cui Lì bisognerà rivolgersi solo all'intermediario e dire: guarda, oggi Nasta prenoto un lotto. Perfetto, che io voglio sottoscrivere i bot di nuova emissione in asta di quel giorno, non pagherà le commissioni di collocamento dell'asta di primario. Queste sono le due sostanziali differenze. Poletto, avete notato qualche movimento particolare dalle vostre piattaforme? Secondo lei c'è più fermento sul segmento della borsa italiana, che appunto intermedia il titolo di Stato? Qualche effetto che può essere stato oggi prodotto da questa iniziativa, almeno fino a questo momento? Ma diciamo che è presto per dirlo. Movimenti ultimamente li abbiamo visti tanti, no? Quindi è difficile dire se oggi sia stato provocato. Sicuramente abbiamo dei dati sicuramente interessanti, abbiamo avuto oltre 30.000 contratti scambiati fino a un quarto d'ora fa, solo sulla parte titoli di Stato, poco più di un miliardo di controvalore. Adesso andare a capire se questi siano effettivamente solo ordini d'acquisto o quant'altro, lo potremmo magari fare un'analisi un po' più dettagliata a fine giornata, però alcuni numeri fanno pensare che ci sia comunque un interesse anche su questa iniziativa. Certo, c'è da ricordare che comunque oggi i beneficiari, se così vogliamo chiamarli, coloro che hanno l'opportunità di fare l'acquisto del titolo di Stato senza pagare la commissione appunto d'acquisto di negoziazione, sono famiglie, imprese, ma non gli investitori istituzionali. Chiaramente se oggi si muovessero questi, magari i movimenti appunto sarebbero un po' più vistosi. Prima di sentire Claudia Segre, sentirei Giovanni da Udine. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno, e anche ai suoi ospiti. Volevo sapere, io ho preso una caparra. Pronto? Sì, ci siamo, Giovanni. Sì, ho preso una caparra per una casa. Ho sentito oggi dei BTP Day e penso di essere un po' in ritardo. Ma la commissione su 10.000 euro, quanto mi verrebbe a fare? Perché se è conveniente la faccio, altrimenti se è irrisoria guardi qua Giovanni, noi a Spanella il calcolo non glielo possiamo fare perché credo che dipenda anche dalla banca alla quale si rivolge, però no, diciamo l'importo percentualmente sono uguali per tutti, ecco, Ugo Bertone. Ma diciamo che oggi la banca rinuncia a una commissione che è tra lo 0,20 e lo 0,30. Ah, 30. Visto l'importo di 10.000, credo che la commissione sia più vicina intorno allo 0,30, quindi oggi lei risparmia acquisto uno 0,30 in commissioni. Ecco, però Giovanni dipende, ha già un dossier titoli aperto, intrattiene già il rapporto per gestire i suoi investimenti con la banca, bisogna farsi anche altre domande. Sa bene come funziona lo strumento di investimento BTP? Perché io oggi immagino anche che magari qualcuno va in banca molto consapevole, qualcuno va in banca dicendo: ho sentito parlare di questa operazione, vorrei aderire anch'io per aiutare il mio paese, ma faccio fatica a pensare che tutte le banche oggi abbiano reso disponibili i loro consulenti in banca per accontentare tutte le persone. Adesso non è che immagino orde di risparmiatori fuori dagli sportelli appunto bancari, però magari in qualche banca ci potrà essere un affollamento un po' più forte degli altri giorni, quindi chissà come sarà già stata gestita questa operazione. Mi piacerebbe anche che ci raccontaste questo, se ce la facciamo prima di salutarci. Claudia Segre, buongiorno, segretario generale di Assium Forex. Anche voi avete aderito appunto come sostegno a questa operazione, ma che cosa ci si aspetta concretamente nei numeri, o appunto la dobbiamo solamente ascrivere questa operazione come a tutte quelle che in qualche maniera hanno voluto rilanciare la credibilità del nostro paese sui mercati internazionali? Perché comunque anche i piccoli che cosa potranno fare oggi in termini di numeri? Ma l'importante secondo me è dare un segnale, come abbiamo detto c'è un problema di credibilità del paese e l'impegno che è stato preso da ABI con le associazioni, esattamente come quello che era stato preso da banche, assicurazioni e imprese con il famoso piano di sviluppo, fa parte di questo tipo di iniziative a favore del paese. Quello che vorrei sottolineare è che differentemente da quello che è stato detto nelle ore scorse in altre trasmissioni, qui non è che le banche vogliono rifilare dei titoli o cose di questo genere. Però stanno dubitando in molti ascoltatori, Segre, questo glielo devo dire perché ci stanno scrivendo. Se mi permette di spiegare, tecnicamente i titoli delle banche, quali ad esempio i BTP, vengono portati in BCE per il finanziamento, quindi assolutamente non esiste questa ipotesi tecnicamente e nello specifico, è solo un'espressione un po' fantasiosa che viene portata da chi è un po' al di fuori dal tecnico. La verità è che si fa un'iniziativa assolutamente a libera discrezione dell'investitore, che può in un panorama di medio-lungo termine valutare il proprio investimento se ritiene che ovviamente mi misure che verranno prese da un punto di vista soprattutto politico porteranno dei benefici tra uno o due anni e quello che sarà al paese, e non crede all'opzione di default che molti stanno portando avanti, può ovviamente vedere in questa giornata un'opportunità di acquisto senza le commissioni, così come il 12 dicembre. Però ripeto, è un'iniziativa semplicemente per dimostrare un certo tipo di impegno, però il nostro paese, esattamente come la Germania, da un certo punto di vista è allo stesso livello di rischio default, ma dall'altro punto di vista io non credo che sia a rischio default, ma che anzi abbia la stessa forza produttiva e soprattutto di reazione che ha la Germania. Siamo concorrenti a loro in tutto e per tutto e siamo assolutamente nei numeri capaci di uscire da questa situazione. Certamente, come ha detto suo collega Barisoni, come tre porcellini ci vuole una coesione tra i tre porcellini. Vabbè, diciamo che il terzo che si è aggiunto adesso, per carità, mi viene anche da dare questa definizione al nuovo esecutivo che non mi piace neanche affatto, però diciamo che oggi sembra avere un rango di credibilità molto diversa rispetto al passato. Adesso in questo club lui è stato fatto entrare di privilegiati governanti appunto europei, e vedremo se questo potrà riuscire a sbloccare la situazione, a patto che naturalmente però le ricette per la crescita, per ripristinare il pareggio di bilancio del nostro paese, arrivino abbastanza rapidamente, perché su questo siamo sicuramente tutti quanti d'accordo. Quanto allo scaricare il titolo di Stato nel portafogli appunto dei piccoli risparmiatori, allora questo è un dubbio che hanno in molti, lo ribadisco, ci stanno scrivendo in tanti. È anche vero che questo è un esercizio che è stato fatto anche Ugo Bertone con molte obbligazioni bancarie. Diciamo che sicuramente le banche hanno consigliato in una determinata direzione, ma questo sta accadendo da molto tempo a questa parte, perché il tracollo dell'industria dei fondi di investimento degli ultimi anni è stato dovuto anche a questo, da quando questo credit crunch ha portato appunto le banche in una condizione di difficoltà a fare raccolta sul mercato, perché in qualche maniera devono farlo con i conti di deposito, con le obbligazioni bancarie, e anche lì siamo pieni insomma di il portafoglio di questi. Ma sai, a parte BTP Day, è un portato della crisi, come sa benissimo Claudia Seghere. In questo momento qua il mercato interbancario, diciamo il mercato all'ingrosso, praticamente non esiste. A questo punto gli istituti di credito che cosa possono fare? Si risolvono a chiedere al retail, al risparmiatore comune, quei soldi che non possono comprare all'ingrosso. E in questo momento c'è un momento di crisi di liquidità tale per cui ci sono delle situazioni patologiche, cioè la banca che si rifiuta di venderti il BTP perché ha da piazzare le sue obbligazioni, che poi è più che la banca a questo punto è il funzionario bancario che vede il suo posto strettamente legato a questo, e è comprensibile, bonus di fine anno. E quindi in questo momento qua c'è un sovraccarico di iniziative emotive nei due sensi, e in un certo senso mi fa piacere il BTP Day se è un'occasione per ripensare ai fondamentali. D'altro canto, se invece è l'occasione per chiedere l'oro per la patria, lo trovo tendenzialmente negativo. Dopo 20 anni passati a sprecare foreste per spiegare che cos'è la MIFID e far firmare opuscoli e opuscoletti per il risparmio informato, il richiamo all'emotività della foresta anche a fin di bene è un piccolo passo indietro. Intanto c'è Emanuele da Pisa, noi tra l'altro stiamo già chiudendo la nostra trasmissione, che ci racconta di essere un promotore finanziario. Dice: nessuno dei miei clienti oggi mi ha chiamato per il BTP Day. Sì, chissà che davvero abbiamo fatto un gran lavorone noi come giornalisti per raccontarla in lungo e in largo, per chiaramente richiamare anche alla dovuta cautela rispetto ad operazioni di questo tipo, ma non perché non dobbiate comprare il BTP, fate quello che volete, l'importante è che un investimento di questo tipo sia assolutamente coerente con le vostre esigenze, con quelle della vostra famiglia, con la gestione del denaro che avete condotto fino a questo momento, che non perché oggi c'è questa operazione appunto la vostra prospettiva del vostro risparmio debba cambiare radicalmente. Sicuramente non cambia quella dei calciatori, che se anche oggi in massa si mettessero a fare un'operazione di questo tipo, magari sì, potrebbero contribuire ad abbassare un tantino lo spread fibrillante, non certo le nostre povere finanze di risparmiatori appunto un po' più piccolini. Federico Cornelli, volevo chiudere con lei, sempre per richiamare un po' al ruolo centrale della banca e della consulenza fatta dalla banca in un frangente come questo. Avete in qualche maniera addestrato in maniera diversa i vostri funzionari agli sportelli proprio per gestire bene questa operazione oggi? Avete fatto qualcosa di particolare? Ma buongiorno. Di nuovo, no, i nostri sui oltre 4.000 sportelli e banche credito cooperativo, diciamo che tutto va come sempre. Come sempre c'è un'attenzione, credo anche nelle altre banche, a dare il giusto consiglio. Non c'è stata una particolare formazione su questo, se non che ovviamente il monitoraggio dei tassi, che sono giorno dopo giorno molto diversi, per cui se vogliamo c'è un più stretto controllo dei meccanismi, dei prezzi di mercato, che è dato dalla volatilità. Benissimo, Cornelli, grazie a Federico Cornelli, a Claudia Segre, Pietro Poletto, Ugo Bertone per essere stato con noi. Quello che io dico è che la banca oggi magari faccia un po' meno pubblicità al BTP Day, e se arriva un imprenditore che ha difficoltà a rinegoziare il suo debito per la sua azienda, arriva una famiglia che invece praticamente ieri aveva avuto l'ok per il mutuo e oggi gli si dice di no perché sono necessarie più garanzie, che si aprano un po' più gli orizzonti mentali in queste situazioni piuttosto che in queste campagne. E speriamo soprattutto, Ugo, che domani non arriva il fondo di investimento Day, l'obbligazione bancaria Day, e che questa operazione si è aperta oggi e si chiude il 12 punto. Tre secondi. E che qualcuno domani compri, anche se è passato il BTP Day. Anche se c'è la commissione, se la commissione ritorna. Grazie a tutti, a domani.